get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, benvenute alla nostra 312esima trasmissione. In studio oggi qui siamo Caterina che vi sta parlando e con me c'è Lucilla e se Ciao. Ho fatto tutti i passaggi giusti in linea ci dovrebbe stare, anche se non sbaglio, Chiara, ci sei? Ciao, sì, okay, ci sono. Ok, allora pazienta ancora un attimo, diciamo due parole e poi siamo subito con te. Sì. Allora, come avete sentito, in collegamento con noi c'è Chiara Cretella e con lei ci sarà anche Inma Mora Sanchez, che sono le autrici del libro Lessico Familiare, edizioni 7-9. Giusto un anno fa noi abbiamo intervistato Monica Martinelli, che è la fondatrice proprio di questa casa editrice che, come dal comunicato stampa che dava notizia della nascita, leggiamo, 7-9 è una casa editrice dedicata alla prevenzione della discriminazione e della violenza di genere. Attraverso le pubblicazioni effettuate da 7-9 in questo anno è evidente quanto il fenomeno sia stato preso in considerazione attraverso libri dedicati all'infanzia, ma e lo vedremo bene anche questa sera, anche attraverso la pubblicazione di libri dedicati ad un altro tipo di pubblico, mantenendo comunque sempre ben presente la natura dello scopo originario. Allora, con molto piacere, tra poco parleremo con le due autrici di Lessico Familiare, che è un libro a nostro giudizio molto molto molto interessante. Solo una breve anticipazione su Chiara ed Inna. Dunque, Chiara è assegnista di ricerca presso l'Università di Bologna e volontaria alla Casa delle Donne, sempre di Bologna, mentre Inma Mora Sanchez è giornalista in comunicazione di genere e fa parte del gruppo femminicidio della Casa delle Donne di Bologna. Adesso direi di fare un breve stacco musicale per poterci collegare un pochettino meglio con Chiara ed Inna, e quindi ascoltiamo la splendida voce graffiante di Tina Turner, che come sicuramente sapete anche lei è stata oggetto di una violenza durissima da parte del marito Ike e dalla quale è uscita con forza e determinazione. Pensate che sulla vita di Tina Turner è stato fatto un film nel 93 dove si narrava appunto tutta la storia della cantante con questo cattivissimo marito. Esatto, e pensate che Angela Bassett, che interpretava Tina nella ricostruzione scenica, ha faticato non poco per cercare di ricostruire i soprusi e le violenze subiti da parte del marito. Quindi quale canzone migliore, purtroppo in tema, se non What's Love Got to Do With It, che dalla voce di Tina Turner, che è anche la canzone che ha dato il titolo al film. Quindi ascoltiamo Tina Turner e poi ci metteremo in contatto con Inma e Chiara. Avevo sbagliato canzone. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl. Possess a track, it's physical. Do it. Dunque, eccoci qua. Adesso siamo con Chiara e Inma per fare loro alcune domande circa il motivo che le ha spinte a scrivere questo testo. E se ci siete? Ciao, buonasera. Ciao. Allora, la prima domanda che vi facciamo è questa, e cioè sicuramente ognuna di voi ha un bagaglio personale di esperienza, quindi esperienze politiche che voi avete fatto e di conoscenze che voi avete a questo proposito, cioè a proposito della violenza di genere, e che ha fatto scaturire l'esigenza vostra specifica per scrivere e di scrivere questo libro. Ce ne volete parlare? Sì, infatti ognuna ha avuto delle esperienze diverse. Chiara Cretella anche lavorava alla Casa delle Donne da prima di me. Io sono Inma. Ciao Inma. E comunque io venivo dalla Spagna quando noi ci siamo conosciute, e infatti lì sì che è vero che c'erano anche altri dizionari, anche si parlava molto di linguaggio. E noi abbiamo parlato di questo fatto che tante volte si parlava della violenza senza capire veramente cos'è la violenza contro le donne e cos'è il femminicidio, il femicidio, e tutte queste parole che ormai sono diventate di uso comune, però che è una cosa abbastanza recente, e invece parlare di violenza è importante soprattutto per capire che stiamo parlando di un problema specifico, no? Certo. E quindi per noi questa era una cosa che abbiamo visto che mancava, e abbiamo cercato di mettere insieme tutte le parole per capire cos'è la violenza contro le donne, ma che teorie ci sono dietro, movimenti, soluzioni certo, e tutto questo. Certo. Vabbè, sostanzialmente hai già risposto alla domanda che volevamo farti nel che cosa, cioè quanto ha contribuito e ispirato nella realizzazione del testo il lavoro che entrambe avete fatto nella Casa Antiviolenza, ma mi hai già dato una risposta, quindi te ne faccio subito un'altra perché ce n'ho un cassetto pieno, quindi allora volevamo sapere, dunque, leggendo il libro ci siamo accorte che la sua strutturazione è molto particolare, perché in sostanza è un dizionario ragionato che si rivolge a più destinatari, no? Quindi operatrici, figure professionali che operano nel settore della violenza, ma non solo. Volete approfondire specificando a chi è rivolto e perché questo vostro libro? Sì, l'idea è venuta prima di tutto per le addette al settore, perché ci siamo accorte andando in giro anche a fare formazioni, convegni, che spesso queste declinazioni molto specifiche anche per le persone che lavorano nell'ambiente più vasto, per esempio gli assistenti sociali, i medici, gli infermieri, tutte queste figure professionali non sempre hanno chiaro queste definizioni. Ovviamente, che siano donne che siano uomini? Certo, certo. La maggior parte, per esempio, delle persone che lavorano nei centri antiviolenza sono quasi tutte donne, almeno nei centri, insomma, che hanno come statuto il fatto di avere personale femminile, e quindi anche loro, ovviamente, tant'è che il libro è stato subito accolto con grande insomma gioia, soprattutto da parte, certo, delle responsabili di alcuni centri antiviolenza, non solo quello di Bologna. È stato utilizzato in questi mesi per fare la formazione alle volontarie e alle future operatrici, quindi mancava un libro che fosse anche un manuale specifico di introduzione per le persone che vogliono diventare operatrici di un centro antiviolenza. Più in generale, invece, quello che ha mosso me, lavorando soprattutto in università, è stata un'esigenza da parte degli studenti e delle studentesse. E mi trovavo con tutte queste tesi sulla violenza e dovevo sempre dare tanti libri e non ce n'era uno che raccogliesse almeno, diciamo, da un punto di vista più generale, una panoramica a 360 gradi per entrare nell'argomento subito, insomma, per avere un quadro d'insieme di riferimento. Okay. Il libro è esaustivo in questo quadro d'insieme ed è un primo passo per poi andare nello specifico con le bibliografie a piedi pagina, ecco, quindi l'idea era di avere un quadro sinottico che in Italia mancava. Certo. Ok. Hai chiarito secondo me hai chiarito molto bene alcuni elementi, no? Perché poi è importante cercare di andare a fondo. Allora, la nominazione, noi per esempio siamo un gruppo di donne lesbiche e per noi la nominazione è diventata fondamento delle nostre storie, delle nostre vite, cioè sapersi nominare e nominare le cose per quello che sono, ce lo chiede la nostra storia personale. E per questo vi facciamo quest'ulteriore domanda. Appunto, voi nominate rinominate, mettiamola così, delle parole utilizzando delle terminologie specifiche e distinguendo bene anche nell'ambito di una stessa parola con dei distinguo che fate ad hoc. Allora, una per tutte, e poi ve ne chiediamo anche altre naturalmente, è quella, la distinzione che voi fate tra femminicidi e femmicidi. Ce sì. la volete fare? Ce la volete... sì, infatti è sempre una, queste due parole sempre tante volte sono usate come sinonimo, e certo che hanno un significato molto vicino, però quando parliamo di femminicidio stiamo parlando dell'uccisione di donne in quanto donne per motivi di genere. Diciamo che sarebbe la parola omicidio, ma di donne, e anche per un motivo, diciamo, pensando a che queste uccisioni non sono neutre, ma si scrivono dentro di una società patriarcale. Invece quando parliamo di femminicidio non solo parliamo delle uccisioni, ma anche di tutte le situazioni che mettono le donne in una situazione di costante pericolo, anche magari anche i suicidi di donne che si togliono la propria vita perché vivono una situazione di violenza. Sì, sì. O anche il fatto che uscire per la strada una sera sia anche un pericolo. Certo. Quindi il femminicidio sarebbero tutte le forme di violenze, e anche questa situazione di costante pericolo, e anche il fatto che tante volte lo Stato e le normative non hanno le normative, ma anche quando ci sono queste normative non si fa niente, o alla fine i diritti delle donne, anche se per esempio anche qua abbiamo tutti i diritti uguali agli uomini, però magari la situazione di ugualtà reale non esiste. Quindi questa è la differenza questa è interessante, se mi permetti, Ilma, perché voi nel libro fate una cronistoria, una piccola cronistoria della normativa in Italia, partendo dagli anni 60, diciamo, arrivando ai giorni d'oggi, al 2013 arrivate, e dove per esempio sia il diritto di famiglia, oppure che ne so, il matrimonio riparatore, e via discorrendo, rispetto alla violenza subita dalle donne e alla legislazione italiana che ci ha messo molto per abrogare per esempio alcune norme eccetera. Ed è estremamente interessante queste tre pagine in cui voi fate questa cronologia, che però dà il quadro della situazione molto molto molto chiaramente. Sì, infatti mi collego a quanto avete detto tutte e due, perché mi piaceva sottolineare questo aspetto, no? Voi vi soffermate proprio sull'importanza dell'utilizzo di definizioni e terminologie giuste nel definire i soggetti, come ad esempio prostitute e prostituite, oppure violenza domestica e violenza di genere nell'ambito domestico. Quindi ci piacerebbe a questo punto che voi poteste ora approfondire di più questo aspetto, anche proprio riguardo agli esempi citati, e magari anche proponendole degli altri. Sì, è importante definire nello specifico di che tipo di violenza parliamo. Per esempio, il caso che facevi, prostitute e prostituite, è una definizione che da qualche anno, insomma, è molto importante, non solo all'interno dei centri antiviolenza, ma di tutti, diciamo, i lavori che, insomma, che si svolgono con le persone vittime di tratta. che distinguono appunto tra prostitute, cioè persone che svolgono il lavoro in maniera consenziente o sex worker, e prostituite, cioè coloro che vengono prostituite da altri, quindi per far comprendere lo sfruttamento della prostituzione, la tratta, e quindi le vittime di tratta per l'appunto. Nel caso per esempio di violenza domestica, evidentemente diversa da violenza di genere. Certo. Ti faccio un esempio: la violenza di genere può essere esercitata anche contro un uomo, perché la violenza che viene esercitata in base al genere, ok? Al genere sessuale, quindi in questo caso può essere, o anche diciamo in base all'orientamento in senso più largo di genere, per cui magari in questa violenza può rientrare anche l'omofobia, la lesbofobia, la transfobia, mentre invece se si parla di violenza domestica contro le donne si va più nello specifico. Certo. Ancora di più ci sono altre definizioni. In inglese si dice intimate partner violence per indicare appunto il rapporto diciamo sentimentale che intercorre tra la persona che agisce violenza e chi la subisce. Un altro discorso a parte si può fare per la parola vittima, che molti centri antiviolenza e molte studiose e studiosi rifiutano, perché non ha in sé quel carattere di resilienza, di empowerment su cui appunto le attiviste e gli attivisti lavorano da molti anni, e quindi alcune volte per esempio nei manuali internazionali si usa questa nuova terminologia che è donna in temporanea difficoltà, per puntare appunto su una situazione momentanea ma che può far vedere l'uscita dalla violenza. È ovvio però che alcune declinazioni sono molto lunghe in italiano, per esempio in inglese si usa molto la parola survivor, che si potrebbe tradurre come sopravvissuta, però proprio perché la violenza domestica contro le donne è stata da molte studiose paragonata alla sindrome da stress post-traumatico che subisce per esempio una persona che supera una guerra o è sopravvissuta a un trauma di una catastrofe naturale come un terremoto. È ovvio però che la parola sopravvissuta, anche per questioni linguistiche, è entrata poco nel nostro vocabolario, quindi e le diciture molto lunghe, per esempio donna in temporanea difficoltà, possono creare nel linguaggio comune delle difficoltà di esposizione. Certo. Quindi la parola vittima viene usata, però si cerca sempre almeno di declinare, almeno all'inizio del proprio discorso, del proprio articolo saggistico, eccetera, l'ambito a cui si riferisce e la motivazione per cui la si usa. Certo. Sì, questa storia delle sopravvissute, noi abbiamo avuto in passato anche ospiti statunitensi in altre attività che abbiamo fatto, soprattutto insomma, comunque sì, sulla violenza maschile sulle donne. Per esempio le statunitensi utilizzano la parola di delle vittime di stupro, che noi diciamo vittima di stupro, loro dicono le sopravvissute allo stupro, ed è vero che per noi in italiano non lo riusciamo a utilizzare, però in realtà la vera realtà è quella che si è delle sopravvissute, e forse questa cosa insomma è importante anche dirla, no? Certo, assolutamente. Io per esigenze proprio di ascolto devo fare un breve stacco musicale, sì, e tanto per rimanere in tema purtroppo della serata, parlando di violenza all'interno delle mura domestiche, ho preparato una canzone straziante di Carmen Consoli, che si intitola Mio zio. Sopravvito nero, era un uomo distinto, mio zio. Madre, non piangere, ingoia e dimentica le sue mani ingorde tra le mie gambe, adesso sta in grazia di Dio. Bravo, l'estremo saluto ad un animo puro, un nobile esempio di padre, di amico e fratello. E sento il disprezzo profondo, il loro occhio addosso svelato, l'ignobile incesto, e non mi hanno creduto. Ti porta in vacanza. Brava bambina, fai la conta, chi cerca prima o poi trova, gioiuzza, fallo ancora, che zio ti porta. Sopravvito niente in onore del mio aguzzino. E eccoci ancora qui, nuovamente con Chiara e Imma. Allora, continuiamo a parlare di linguaggio, no? E, abbiamo letto il vostro libro, l'abbiamo trovato molto interessante, e lo continuiamo a dire perché credo che debba essere diffuso il più possibile. Ma detto questo, noi abbiamo apprezzato appunto il vostro stare su la definizione del linguaggio giusto, perché nella realtà dei fatti demistifica l'uso di quel neutro maschile. Come lesbiche siamo profondamente consapevoli che il neutro maschile non è affatto neutro e tende per di più a ricondurre ad un unico che nella realtà non esiste. Ad esempio, per quello che ci riguarda, spesso si cerca di ricondurre lesbismo sotto il grande cappello di omosessualità, ma noi ci definiamo lesbiche perché invece c'è una connotazione diversa. Non stiamo qui a dire il nostro specifico, però diamo manforte a quello che voi dite, ed è per questo che ci è piaciuto il vostro libro. Ma rispetto alla violenza contro le donne, quanta importanza ha, secondo voi, l'uso del linguaggio per smascherare l'occultamento stesso della violenza? Guarda, il linguaggio è fondamentale. Quello che non dici non esiste. È quello che non puoi vedere rappresentato o non lo puoi immaginare nel certo. contesto sociale, soprattutto certo. perché lo puoi immaginare con la testa, ma il fatto è che i modelli che un bambino o una bambina hanno rappresentati, per esempio nei manuali scolastici, formeranno i loro ruoli di genere dentro la società certo. e quindi è fondamentale sia il lato dell'immagine che il lato del linguaggio. Ti faccio un esempio: qualche giorno fa la Boldrini, con un atto sembrerebbe quasi da dire rivoluzionario, se non fosse tragico che nel 2015 una figura così alta dello Stato debba ribadire delle cose così ovvie, certo. ha fatto un discorso sulla grammatica di genere, dicendo, non so se l'avete seguito, che sì. appunto voleva essere chiamata al femminile con la sua carica. Sì. E che dunque insomma che la carta intestata dovesse essere cambiata, per esempio, e che negli atti pubblici ci fosse da parte dei dirigenti e delle dirigenti più attenzione nella comunicazione istituzionale, quando si redige un modulo, per dire, un bando, eccetera, a questo aspetto. ministro, ministra, presidente, la presidente, insomma, se ne ha parlato molto in questi giorni. Sono usciti, oltre al nostro libro, anche alcuni libri da parte di Giulia, giornaliste, insomma, ci sono vari contributi. Mm-hmm. È uscito un altro librino molto carino che si chiama Vocabolaria, che fa un po' il punto della situazione su come dire le cariche, i lavori, eccetera. Quindi niente di nuovo sotto il cielo. Nel 1987 Alma Sabatini, che era tra l'altro stata incaricata dal Ministero delle Pari Opportunità, redasse proprio questo manuale per un buon uso della lingua italiana contro il sessismo. Parliamo dell'87. Di quel manuale il Ministero per le Pari Opportunità fece lettera morta. Sì, lettera sono morta. Anche spariti dalla circolazione, furono stampati, sono stati occultati. Certo. Io ce l'ho però. La presidenza del Consiglio dei Ministri furono stampati e sono introvabili. E ti dico anche che è incredibile, non tanto il discorso della Boldrini, le reazioni in televisione, sulla stampa, in internet, offese di tutti i generi, perché che cosa fai, veramente proprio offese gratuite, perché ti paghiamo per questo, vergognati, cosa sono queste stronzate. Ha qualcosa a che vedere con l'analisi che voi fate del patriarcato, quello buono e quello cattivo, no? Le forme, sì, di cui voi parlate nel libro, molto interessante. Esatto, quindi cioè esiste un patriarcato consentito e uno non consentito. Certo. Noi viviamo in un patriarcato consentito in cui apparentemente sembra che tutto si possa fare, poi però quando vai nel profondo delle cose, allora ti rendi conto che è tutta apparenza. Ecco, certo. Questo è un esempio di occultamento, cioè dove sparisce la differenza e dove, perché non è neutro, mai è neutro. Infatti. Per cui il linguaggio è fondamentale sia per il discorso che fate voi dell'emergenza delle differenze, ma anche negli atti istituzionali, no? Certo. Cioè questa metastruttura, questo sovralinguaggio, no? che ottunde i cittadini, è proprio il linguaggio del potere, diceva Lacan. Quindi questo linguaggio del potere non a caso parla la lingua del patriarcato. Certo, certo. Certamente. E la cosa che stupisce, no? È che spesso e volentieri sono proprio le donne le più acerrime, no? Che vogliono essere chiamati il presidente, il direttore generale, eccetera, eccetera, e che ci tengono, lo ribadiscono, perché si sentono nel neutro. Ma guarda, questo è un vecchio discorso, ma io rispondo sempre nella stessa maniera. Il patriarcato non agisce solo sugli uomini, certo, agisce soprattutto, certo, sulle donne, soprattutto sulle donne. Quindi in queste situazioni si evidenzia come il patriarcato funzioni nel modellare l'identità di genere verso quel modello di subalternità, certo, tant'è da farlo considerare addirittura desiderabile dalle stesse donne che hanno una chance di potere dentro alle istituzioni, certo. Quindi niente di nuovo sotto il cielo, ecco. Certo. Senti, un'altra domanda. Allora, milioni di bambine nel mondo non hanno accesso all'istruzione, no? Quindi rimanendo vittime di tradizioni sociali e religiose che le costringono ad una subalternità, di fatto viene loro vietata la possibilità di vivere un pensiero su di sé. Voi parlate nel libro di matrimoni forzati, aborti selettivi, riduzione alla schiavitù e stupri di gruppo. Quello che in altre parole potremmo definire libero accesso al corpo delle donne. Ora domando, quanto è fondamentale la possibilità di costruzione del pensiero e quanto un dizionario come il vostro può instradare verso una necessaria consapevolezza? Eh sì, infatti la consapevolezza è la cosa fondamentale anche per cambiare la situazione. Senza educazione, senza formazione, le donne non possono cambiare una situazione di discriminazione, di violenza. E, infatti attraverso sia questo libro, con questo libro non è che possiamo cambiare, certo, tanto, però certo. Diciamo che tutto il pensiero femminista, anche costruito da anni, è la formazione, la sensibilizzazione fondamentale per cambiare questo modo di guardare la realtà, perché infatti questo che avete detto, libero accesso al corpo delle donne, infatti è fondamentale per capire come il corpo delle donne è stato sempre violentato, stuprato, violentato di diverse forme, e che anche adesso magari che ti sembra queste situazioni che anche avete descritto come aborti selettivi, matrimoni forzati, sembrano cose lontane, però neanche ci siamo abituati anche a guardare magari la pubblicità dove il corpo della donna viene anche rappresentato come se fosse niente. E quindi capire che dobbiamo cambiare il nostro sguardo verso anche questa pubblicità, verso questo mondo che compra, vende il corpo delle donne senza pensare a niente, no? Senza capire che lì dentro c'è una violenza, un modo di guardare assolutamente violento, e è molto importante per costruire questo pensiero. Mm-hmm. Sì, anche perché stavo riflettendo mentre parlavi che le donne spesso vengono anche colpite per punire qualcun altro, cioè nel senso, se tu vuoi punire un tuo rivale gli violenti la moglie, no? Come se fosse un oggetto che tu puoi usare impunemente, insomma, ecco. Sì, infatti anche quando infatti le donne anche come uno strumento di guerra, certo. Tante volte gli stupri sono il stupro a una donna diventa anche un'offesa per l'uomo, perché certo. Si pensa che lui sia il proprietario di questa donna. Quindi anche lo scambio delle donne dal padre al marito, diciamo che lì merce. In questo caso sì. Esatto. Sì, sì, questo il fatto che sia merce in tutte le culture, capito? Noi pensiamo come donne occidentali di essere al di fuori, no, dal mercato, mentre ci sembra e guardiamo lontano da noi pensando che le situazioni vissute in altre culture siano assolutamente terribili rispetto alla nostra. Non è così, sono forme diverse. Fatema Mernissi, io faccio sempre questo esempio che amo moltissimo e che è una sociologa marocchina, ha detto, guardando all'Occidente appunto, che il nostro burqa è la taglia 42, per esempio. E quindi cioè, magari se fossimo più in grado di guardare a noi, la nostra società, cosa ci impone e quanto ci limita nella libertà, allora forse potremmo anche trovare dei punti di contatto con donne di altre culture per andare avanti e magari progredire insieme, no? Ma un'altra domanda ancora che vi vogliamo fare è questa, no? Leggendo i casi di violenza contro le donne, alle volte no, alla cronaca, alla ribalta vengono fuori dei casi di violenza che sembrano così talmente abominevoli, così talmente terribili da non rientrare nella cosiddetta normalità, no? E voi stessa e voi stesse nel libro riportate casi che sono da considerarsi quasi estremi, no? Terribili, estremi, quasi irreali. Ma quanto di questa realtà invece entra nella nostra cultura paritaria e democratica, cosiddetta paritaria e democratica, e quanto può essere pericoloso considerare quelle violenze così lontane da noi? Ma questo è un meccanismo abbastanza normale di proiezione, no? Sì. L'altro giorno stavamo facendo una presentazione del libro e ci si è alzato il classico uomo che ha detto: ma no, cosa dite, queste cose succedono altrove, guardate l'ISIS, guardate i musulmani, soliti, cioè c'è sempre poi un uomo nelle nostre presentazioni che fa questa cosa. Però comunque, al di là di tutto, è un meccanismo di proiezione abbastanza diffuso che nasconde ovviamente la violenza che c'è dentro la nostra società e che non è poi neanche così poco evidente, perché io certo. Oggi ho guardato il telegiornale, c'erano ben due femicidi sono successi, sì. In Italia, e come operatrice di un centro antiviolenza quando facevo l'ufficio stampa, ho dovuto comunicare la morte di una nostra assistita, ho dovuto lavorare a un caso di una donna uccisa e fatta a pezzi e messa nel freezer dal proprio fidanzato proprio qui nella civilissima Bologna qualche tempo fa, di cui c'è stato adesso il processo. Quindi sono cose che ci toccano in maniera molto molto molto molto vicina. La stessa ricerca femicidio di cui Ima fa parte, che è prodotta dalla Casa delle Donne, viene perché una nostra volontaria nel 2006 rimase molto colpita dal fatto che viveva in un condominio a Bologna e vedeva sempre questa bambina che scendeva le scale, e un giorno questa bambina è stata uccisa dal padre. E una bambina bellissima, dolcissima, e lei rimase talmente sconvolta che venne alla Casa delle Donne a proporci di contare effettivamente quante fossero le donne uccise in Italia nel corso dell'anno. E questa cosa, che non era mai stata diciamo fatta prima, ha aperto una falla anche nelle statistiche, nella comunicazione della violenza, ed è qualcosa che come ti dicevo è partita dalla porta accanto, dalla certo, porta accanto. Certo, io non mi rendo conto che magari da Bologna è un po' difficile seguire Radio Onda Rossa, però all'interno del martedì femminista e lesbica autogestito, che parte dalle 5 di pomeriggio e finisce fra un'oretta più o meno, noi nel nostro GR ogni martedì facciamo la conta dei femminicidi in Italia, e t'assicuro che l'elenco è lunghissimo. Ogni martedì, e questo significa che facciamo la conta della settimana, e sono tantissime. Noi abbiamo pagine e pagine di violenza sulle donne, capito? È una cosa veramente incredibile. Allora, sempre per rimanere purtroppo in tema, io volevo mandare un'ultima canzone, e prima di mandarla poi ci saluteremo per bene, perché si tratta di un brano di Jasmine Villegas, perché come dicevi tu prima c'è sempre un uomo che dice no, ma queste cose sono lontane, e c'è sempre l'uomo che dice io non volevo, cioè non volevo. Dopo che ha fatto qualche cosa di tremendo alla sua compagna, io non volevo. Ecco, questa ragazzina che ha poco più di 20 anni, è una cantante, ha fatto questo video dove si visualizza la violenza del suo compagno, e all'inizio di questo video c'è questa scritta: tutti hanno una storia, questo fa parte della mia storia e mi ha reso quella che sono. Mai sentire imbarazzo o vergogna per qualsiasi prova che avete sopportato. Crescere da esso e mai guardare indietro. Tu non sei sola, con amore, Jasmine. Il brano si intitola Didn't Mean It, che appunto significa io non volevo, cioè non volevo farlo. me, start to make me believe. Allora, come ringraziarvi? Siamo contentissime che siate state con noi. Grazie. Non so che altro dire, siete state puntuali, precise, esaustive, bravissime a scrivere un libro del genere. Lo vogliamo ricordare, Chiara Cretella e Imma Mora Sanchez, Lessico familiare per un dizionario ragionato della violenza contro le donne, della casa editrice da noi preferita 7-9. Grazie. Ok, vi ringraziamo nuovamente di essere state con noi e magari ci risentiamo per un'altra occasione, non so bene, troveremo il modo. Troveremo il modo, sì, non perdiamoci di vista, assolutamente. Grazie. Okay, grazie. Ciao. Allora, a questo punto la nostra trasmissione finisce con il groppone, come si dice a Roma, sullo stomaco. Vi ringraziamo di averci ascoltato e ci diamo appuntamento fra 15 giorni per una nuova trasmissione. Ma nel frattempo, esatto, vogliamo dirvi una cosa. Vogliamo dirvi che questo venerdì, se volete, c'è Kesbilè che vi invita per uno spettacolo molto particolare. Esatto, cabaret, un cabaret fatto da alcune donne, tra cui una nostra amica non vedente, e quindi dovete venire assolutamente alle 21, come al solito, presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, via San Francesco di Sales 1A. E quindi vi aspettiamo numerose venerdì prossimo. E poi, siccome sappiamo che le donne si scordano molto spesso gli appuntamenti, noi vi diciamo, intanto per il momento, non prendete impegni per il 10 aprile. No, perché? Il 10 aprile, che è un venerdì, e nuovamente è un venerdì? Sì, è un venerdì. Il 10 aprile, che è un venerdì, vi invitiamo a sempre alla Casa Internazionale delle Donne, presenteremo un nuovo libro, che nuovo è già per nuovo modo di per dire. Modo di dire, finalmente tradotto in italiano, ed è l'automitobiografia di Audre Lorde, ed è Zami, e saranno con noi alcune persone come Eliana Borghi, come Simonetta Spinelli, ma come anche alcune compagne che stanno qua in radio. Non vi diciamo chi, dovete venire a vederlo, esatto, e a scoprirlo insieme a noi. Allora, venerdì prossimo al Kesbilè, il 10 alla Casa Internazionale delle Donne per la presentazione del libro Zami di Audre Lorde. Allora, il coordinamento Lesbiche Romane vi saluta e vi dà appuntamento fra 15 giorni. Ciao! Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, yeah.